Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, ben ritrovato. Comincia la settimana questo 9 maggio. E San Pacomio è un cenobita, quindi tentato più volte per la via monastica, non ci riesce nella solitudine assoluta, quindi un po' vacilla, poi però in una comunità più ampia diventa un punto di riferimento in Egitto. Tra gli altri santi, San Beato, c'è anche San Terma, San Geronzio di Cervia e naturalmente Isaia il profeta. Dovrebbe essere il santo primo, secondo me, per l'importanza che ha nell'Antico Testamento, e ricordato alla fine come un poveretto qualunque. Insomma, questo è perché l'Antico Testamento non convince molto, capisci, la Chiesa Cattolica. Tra le altre cose, in questo giorno, nel 1946, l'abdicazione, meno male, di Re Vittorio Emanuele II a favore di suo figlio terzo, figlio Umberto, quindi Savoia che è, e nel 1950 la dichiarazione di Schumann per l'Europa. Infatti il 9 maggio è tradizionalmente considerata la festa dell'Europa, c'è poco da festeggiare, mi pare di capire, tra Schengen e tutto quello che succede. Eh sì, abbastanza. Allora, caro Oscar, ci siamo risvegliati, io tanto lo dico, con la macchina del tempo ripiombati a 30 anni fa, in questi 30 anni ciclicamente torno alla questione politica magistratura. No, il Milan non va in B. No, non è questo di quest'anno. Quest'anno no. Ma l'anno prossimo potremmo fare di meglio. Non scherziamo, hai sentito che Berlusconi ha chiarito col suo annuncio che intende cedere. Mi piace questo. Ha chiarito? Cioè, è tutto chiaro. Per me è tutto più confuso. Ma no, vabbè, dai, parentesi ironica dedicata al calcio. No, ma cioè, ti pare normale che ancora oggi i giornali, ma quante volte abbiamo visto il rapporto tra politica e magistratura in questi 30 anni al centro del dibattito? Infatti ci vuole una certa, diciamo, far ricorso a tutte le migliori energie professionali per non o mettersi a piangere o a ridere dopo decenni, perché sono sempre le stesse cose. Esatto, i magistrati possono parlare, non possono parlare. I politici che si indignano per i magistrati parlare, i magistrati che dicono ma insomma rubate a ogni piede e vi indignate perché noi lo diciamo, però decenni di titoli e di pezzi, è sempre allo stesso punto. Esatto, siamo sempre, non facciamo mai un passo avanti o un passo indietro, sempre così, sempre questo dibattito. Però noi di cosa vogliamo parlare, su cosa vogliamo interrogare i nostri ascoltatori all'800 24 0024? Allora, Renzi da Fazio ha detto che c'è una questione morale nel PD, sentilo. Lei è anche segretario del PD, questione morale nel suo partito? La questione morale del PD esiste, sì, punto. Cioè, chi la nega, nega la realtà. Siamo una comunità di 50.000 amministratori e purtroppo ci sono troppi casi di robe in cui le cose non girano. Quando tu c'hai una macchina complessa da gestire com'è il partito, insomma, lo dice, c'è la questione morale, troppi casi, troppo che non va bene. Noi però vediamo che c'è anche dopo questa ficcantissima, non ti sarà sfuggito, la ficcantissima domanda di Fazio, questione morale, cioè parla proprio, sì. Tema questione morale, cioè ci siamo messi d'accordo, io le passo la palla, non dico nulla, non ho un'opinione, ci illumini, caro segretario. Va bene. Allora, però la questione è questa, anche a Livorno c'è un sindaco indagato, in questo caso del Movimento 5 Stelle, Nogarin. Allora, vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori, cosa vogliamo chiedere? Se davvero le questioni sono diverse, se basta un avviso di garanzia per dire ci si deve dimettere, se fa bene Renzi a rivendicare, anche, a dire anche ci perché vogliono le sentenze. Anche perché i 5 Stelle di solito così dicono, no? Anzi, Di Maio lo diceva a proposito di Lodi in maniera aperta. Senti Di Maio 2 giorni fa. Io mi aspettavo a Lodi di trovare le dimissioni del sindaco e invece qui la giunta va avanti, la giunta del Partito Democratico continua a governare come se nulla fosse. Per carità, cioè le cose non sono tutte uguali, ogni caso è diverso. E il sindaco di Lodi è arrestato e ovviamente quello di Livorno ha un avviso di garanzia. Però, cioè, voglio dire, c'è qualcuno che è più uguale degli altri, è una questione molto molto dibattuta questa del rapporto. Il sindaco di Livorno, che appunto ha da una parte comunicato la sua disponibilità di merce, dall'altra non si mette. Come ha argomentato? Ieri era in onda. Ci spiega intanto perché non si è dimesso? Ma guardi, io credo che non ci sia una linearità che va da sé tra l'avere un avviso di garanzia e la dimissione stessa. Dipende da quello che accade. Dipende da quello che accade. E quindi però allora la linearità non si può chiedere neanche per gli altri, che quando arriva l'avviso di garanzia si devono dimettere. Cioè sì, qui la questione tra giustizia e politica, e non vogliamo neanche fare una proporzione, non vogliamo mettere i numeri, è vero che molti giornali hanno posto l'accento che ci sono, che ne so, 100 e più indagati nel Partito Democratico, però Renzi dice vabbè, ma noi abbiamo anche 50.000 amministratori, quindi statistica proporzionalmente diciamo che le proporzioni non so se sono rispecchiate. Però sempre, sempre delicato quando si tratta di rapporto. Sì, perché ciascun per sé fa le eccezioni in questo punto, e invece quando si tratta degli altri spara zero. Capito, ma tu cosa ne pensi? Quindi l'avviso di garanzia non vale certo? No, io penso che l'avviso di garanzia in assoluto non è l'arresto in custodia cautelare in fase di indagini preliminari, e che quindi bisogna distinguere. Poi bisogna vedere reato e reato. Ci sono delle circostanze in cui secondo me è giusto chiedere le immediate dimissioni, quando si tratta di... quando escono automaticamente, cosa diversa poi dallo stabilire se sia giusto o meno che escano automaticamente, intercettazioni nelle quali si capisce che il sindaco ha chiarissimamente taroccato le regole, ha girato le aste e così via, beh... la questione di opportunità politica consente secondo me di dire no, vai a casa. Anche perché poi, nel caso del sindaco di Lodi pare appunto che abbia ammesso, cioè qualche capito, responsabilità. La responsabilità penale te la vedrà in tribunale, ma la politica dovrebbe avere una logica distinta invece, no? Vogliamo ricordare, oggi il Corriere della Sera scrive che Nogarin sarebbe indagato per questa vicenda di alcuni precari assunti nell'azienda municipalizzata dei rifiuti su cui si sta indagando. E che questo appunto consente alla procura di incardinare la fattispecie di concorso in bancarotta fraudolenta, perché è la stessa azienda dei rifiuti, per la quale, constatando che a fronte delle sue perdite il Comune di Livorno non aveva la capienza per continuare a ripianare le perdite, il sindaco, e io difendo quella scelta, ha detto no, libri in tribunale, si va in amministrazione concordata, noi non possiamo continuare a dissanguarci perché chi è venuto prima ne ha fatto perdere soldi a bezzeffe. Però insieme, contemporaneamente, nell'assumere questa decisione assumeva in pianta stabile 33 precari nella stessa azienda, quindi a quel punto la procura dice come, da una parte la manda in tribunale, dall'altra ne aggrava i costi, e questo è il motivo per il quale si becca l'avviso di garanzia. L'avviso di garanzia. Anche se lui dice appunto non è come il caso di Lodi, ma per carità ogni caso è diverso e non è che vogliamo fare paragoni dei due casi che non conosciamo, vogliamo paragonare, non so, due tipi di comportamenti, vogliamo capire se davvero ci può essere una linearità o ci può essere qualcuno più specchiato degli altri di fronte e dall'altra capire anche che secondo me è giusto distinguere da caso a caso, purché ci siano degli elementi concreti per poter distinguere, non se amico mio non succede niente e se invece mio nemico deve andare a casa. Vabbè. In tutto questo un magistrato può parlare secondo me? No, torniamo a bomba sul problema e sulla questione classico, principale direi. Mamma mia ragazzi, cioè può parlare un magistrato sul referendum? Voglio leggere questa presunta circolare che adesso devono, oggi si incontra il ministro Orlando con il vicepresidente Legnini del CSM, perché in teoria c'è una specie di richiesta da parte del governo su un provvedimento da parte del CSM, una circolare che dia delle linee guida ai magistrati per poter decidere in che misura poter intervenire nel dibattito politico, tratti di referendum, non sto tratti di elezione, voglio proprio leggerla. Come fanno a stabilire l'esercizio del diritto alla libera espressione al cittadino magistrato? Perché da una parte ovviamente molti ascoltatori direbbero sì è giusto, bisogna mettere i limiti, ma è possibile mai possiamo mettere i limiti all'espressione? Io veramente credo di no. Ma no, ma tutto secondo me nasce però da questo errore di fondo, cioè aver caricato e voler caricare questo referendum come se fosse un stare proprio contro il governo. Il bene e il male. Esatto, per cui mi spiace, ma anche quando il ministro Boschi, leggo da un comizio, bravo, ha detto chi vota no è come Casa Pound o sta con Casa Pound, dal punto di vista tecnico ha detto una cosa vera, perché Casa Pound è contrario, ma dal punto di vista sostanziale nel dibattito politico è un'argomentazione, a mio modo di vedere, è un'argomentazione davvero, però che esprime terrore davvero sbagliata. Aspetta, perché se l'appello al PD e alla sinistra è siete Casa Pound, cioè il massimo dell'offesa dal punto di vista per chi sta a sinistra, questo esprime una cosa che si chiama paura. Paura, sì, paura io sono più dell'idea è venuta male la prima. come dire, la come Boschi, dire la ministro Boschi, però... Boschi, dai, alla prossima, magari da qui a ottobre. Può, ovviamente può essere. Però cioè, ecco, solito... per esempio, Renzi, una cosa del genere, secondo me, non la direbbe mai. Così una caduta di stile. Beh, così. No, però dicono, noi non possiamo saperlo. Però dicono che molte delle battute che i suoi ripetono sono quelle che lui, per caricarli, gli dice a quattro occhi. E che loro a quel punto, muniti della licenza di uccidere, ma questa, lanciano ci sono in delle pubblico. Cose che vengono dette a quattro occhi che magari non devono uscire. No, no, lei dice per caricarli, perché ovviamente significa andate avanti voi. Ecco, questo è. Quindi bisognerebbe vedere, perché a quanto pare dicono gli accreditati Renzolo e Maria Teresa Meli, cioè quelli che attingono al verbo, capisci? Cioè si abbeverano laddove lo pan degli angeli si manuca, come dice Dante, cioè alla tavola del premier. E allora alcuni dicono che appunto il premier è il primo che carica i suoi con queste frasi dure. Ecco, questa cosa di Casa Pound, posso dire, io mi stupirei se fosse farina esclusivamente ho del capito, sacco. Ma magari gliel'ha detto, ma non da, ma poi ci sono magari modi, dice modi tu. Non so, sì. in un comizio io. Però non direi, insomma, in un dibattito, chi vota quella battuta non esprime forza, chi vota no, al referendum è come Casa Paola, si rendono conto che è più dura di quanto immaginassero. Ci chiede un ascoltatore: voglio sapere cosa pensa Giannino sulla nomina di Calenda ministro. Tra un attimo rispondi, però Oscar, c'è un ascoltatore, Angelo da Milano. Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Eccoci. State bene, spero. Sì, benissimo, stamattina. Sì. È lunedì, allora, ma cari. Sentite, io conosco un pochettino la realtà di Livorno, non tanto. Questo sindaco probabilmente non è neanche un genio, ma teniamo presente che non ha fatto niente di quello che probabilmente gli viene imputato, perché quelli che sono stati assunti era stato obbligato ad assumerli, perché c'erano già delle procedure avviate. E i libri in tribunale li ha portati lui. Io adesso non conosco tutta la storia, ma io spero che i bravi giornalisti indaghino un pochettino, perché le cose non stanno esattamente come a Lodi, cioè no. Io sono di Milano, cioè, no, ma infatti sul paragone l'abbiamo detto più volte, non vogliamo mettere a fianco, no, no, cioè, io come non dire, sono neanche due a favore di Grillini, per carità di Dio, però bisogna dare a Cesare quel che di Cesare, cioè la situazione di Livorno è incancrenita da 60 anni, cioè da 60 anni di governo. Allora, sicuramente, come dice lei, Angelo, le persone che sono state assunte, come dice lei, erano state assunte perché era stato promesso dalle amministrazioni precedenti l'assunzione. Però è proprio per avere portato i libri in tribunale e parallelamente avere dato il via libera col nuovo consiglio di amministrazione su parere del sindaco all'assunzione di questi precari, che lì la procura vede qualcosa di, ma come, porti i libri in tribunale e dall'altra parte porti avanti una richiesta di aggravio dei costi su questa, diciamo, su questa, però vedi, io apprezzo molto lo spirito del nostro ascoltatore, che ci invita ad approfondire e a non fare di tutte le erbe un fascio. Viva ascoltatore così. Ci chiama anche Carmelo da Cosenza. Buongiorno Carmelo. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci. Ecco, io sono segretario comunale, purtroppo. Ah, ma no, perché purtroppo? Così. No, dico, perché di queste cose... Quindi lei si trova in quella delicata condizione, per cui i politici se la prendono con lei dicendo che è lei che impedisce loro di fare, tranne il fatto che quando c'è qualcosa che non funziona, volta, il colpevole volta, è lei. No. Esatto. Adesso no, diciamo che... Sta nel sistema, cioè altrimenti non si vincono le elezioni, quindi si fanno gli accordi con i portatori di voti e di interessi, e quindi alla fine è trasversale, insomma, perciò non cambia nulla ed è così diffuso, perché altrimenti veramente non si cava un voto dall'urna, insomma. Ma lei dal di dentro, Carmelo, ci racconta uno spaccato, seppur limitato alla sua esperienza, devastante. Guardi, in 22 anni io ho iniziato in Sardegna e forse lì la situazione era un po' più vivibile. Sono passato in Bergamasca, ho fatto una puntatina nel Lazio, sono in Calabria adesso da 15 anni. Le assicuro, con modi differenti, ma tutti mi hanno chiesto sempre le stesse cose: favorire gli amici e mazzolare i nemici. Non c'è stata nessunissima, ma voglio dire, latitudini diverse. No, lei le conosce meglio di noi. Ai nostri ascoltatori, lei può dire quindi che nell'alta Bergamasca o in Calabria è uguale. In Bergamasca, non dico ovviamente i comuni, ovviamente, sì. Comuni leghisti, e i professionisti dovevano essere iscritti alla Lega, cioè venivano già accompagnati con nome e cognome. Ancora, diciamo, era la Merloni Ter, ma voglio dire, adesso il tetto unico nuovo sugli appalti, insomma, è entrato in vigore. Quindi voglio dire, non stavamo in preistoria, diciamo. Ma, ma lei dovrebbe scrivere in un libro la sua esperienza. Uno degli ultimi sindaci di uno dei comuni calabresi, tra l'altro si è beccato pure 4 anni per una condanna, questo pochi mesi fa, insomma, insieme con il resto poi della giunta, mi disse: a far le cose per bene c'è la legge. E quindi noi siamo peraltro fantastico. Ma questa è la frase iniziale del libro, fantastico. Carmelo. Le assicuro, guardi, per cui io ho detto: siccome vengo da un'altra parte della Calabria, che è molto più pesante, diciamo, vengo dalla Locre, dico, io avrei, cioè, qui si sono richieste di fare il consigliere, insomma, no? Se avessi fatto l'avvocato di mafia, insomma, almeno avrei avuto soddisfazione dal punto di vista economico. Invece mi devo trovare così, insomma, dietro queste richieste. Ma le assicuro che è un fatto normale. No, ma infatti, Carmelo, anche il modo in cui lei ce lo racconta a diverse latitudini, beh, ma è straordinario. Ci teniamo anche il suo numero, magari. No, certo, perché lei è un testimone di giustizia, per così dire. Nel senso, no, ci teniamo il suo numero non per altri motivi, perché magari approfondiremo in un'altra occasione, Carmelo. Però vedi anche la serenità con cui parla, perché sì, è la rassegnazione. Cioè, dice, ho girato tutta l'Italia, però bellissimo. Per le cose giuste c'è la legge. Noi facciamo altro. Vabbè, Fausto da Vicenza. Amarezza e rassegnazione. Sì, esatto. Fausto, buongiorno a voi. Felice di essere, di avere la possibilità di parlare con voi, perché vi ascolto tutte le mattine. Grazie. In merito al sindaco di Livorno, penso che alla fine, non dico che lo aspettassero al varco, però quando hanno avuto la possibilità di beccarlo, di farlo su qualcosa, non hanno perso tempo, oppure ci provano, ma non perché si voglia chissà cosa, è che purtroppo secondo me in Italia, nel momento in cui qualcuno cerca di fare qualcosa per bene, qualcuno è dietro l'angolo pronto lei dice i magistrati rossi, i magistrati rossi che a Livorno sono nostalgici delle giunte rosse pluridecennali, non penso che ci sia un colore del magistrato oggi, ma per voler mettere i bastoni tra le ruote, il voler mettere i bastoni tra le ruote, perché alla fine a qualcuno avrà dato fastidio, a qualcuno non starà bene, e quindi qualcuno troverà le vie legali per fermarlo. Però Fausto, questa è la questione che si potrebbe applicare a questo punto a tutti, che tutti potrebbero mettere davanti a dire: vedete, io rompo le scatole, do fastidio, muovo l'acqua. Comunque, se Nogarin vorrà domani assolutamente, noi siamo intenzionatissimi a non far tutto il buon fascio e quindi a tentare di capire di vicenda in vicenda, il nostro mestiere è quello. Intanto, tra poco, noi racconteremo una storia che magari al nostro segretario comunale di Cosenza potrebbe anche interessare, come a tutti i nostri ascoltatori. La storia di mala burocrazia, vogliamo dire. Mala burocrazia, sì. Ordinaria, però, di ordinaria follia burocratica. Esatto. Non è l'eccezione, esprime la regola questa vicenda. Esatto, due ragazze che avevano vinto un concorso, diciamo, ragazzi intraprendenti, per diventare parrucchiere ambulanti, cioè non con un negozio, immagino andando in giro, e però sono state fermate dalla burocrazia. Mancavano i timbri. Perché i timbri. La burocrazia italiana, espressione delle lobby antiche dell'offerta di servizio e del commercio, tutela la vecchia modalità per cui tu stai in tua bottega e aspetti il cliente. Se te lo vuoi andare a cercare, allora a quel punto la vecchia lobby dice al regolatore pubblico: oh, quello mi fa concorrenza impropria, cos'è sta cosa che si vanno a cercare i clienti? Quindi capita regolarmente come in Benigni. Cioè, chi siete? Un fiorito. Siamo sempre là. Tra poco ne parliamo, state con noi. State ascoltando un programma offerto da Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Scegli una realtà che vale. Messaggio pubblicitario. caro Oscar, il nostro segretario comunale ha spaccato, come si dice, ma lo sapevo, no? Perché questa frase su Bergamo immaginavo che avrebbe fatto sobbalzare un po' dei nostri, sì, ascoltatori. Sì, vabbè, ma anche chi dice, ma insomma, denunci invece di dire che da 20 anni ha visto le cose e con una certa quasi, come dire, impotenza ha confessato che a tutte le latitudini chiedono solo com'è di favorire gli amici e mazzolare, e mazzolare i nemici. Questo succede, lui. Che un po', voglio dire, poi la sintesi di come si concepisce e pratica la politica italiana. Questo, sì, è il problema, un po', alla radice della questione morale, no? Comunque, caro Oscar, ora vogliamo raccontare la storia di due donne che avevano vinto un concorso con 20.000 euro in palio e con un'idea originale. Volevano fare un hair truck. Tu non ne avresti bisogno. No, io le manderei in rovina, come ovvio. Un hair truck, cioè mettere in piedi un, come dire, un'attività di coiffeur, di parrucchiere itinerante nel Salento. Sai che arrivano i turisti, eccetera, e avevano vinto un concorso, un'idea brillante, eccetera, ma la burocrazia ha fermato tutto. Non si può fare un'attività artigianale ambulante. La Camera di Commercio ha detto no. Questo succede. Allora, salutiamo Francesca Lattante, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Insieme a Michela Pulieri ha vinto, appunto, due giovani leccesi. Avevate avuto questa idea. Come vi era venuta questa idea? In realtà questa idea è un'idea che esiste da molto molto tempo. Poi soprattutto adesso che è un periodo in cui lo street style, diciamo, è ormai molto diffuso, no? Quindi diciamo, come no? C'è che lo street food, per sì, esempio. Esatto. Esatto, quindi in realtà diciamo che volevamo mettere il nostro servizio, quindi il nostro lavoro, comunque diciamo in una forma un po' diversa, no? Quindi volevamo creare questa sorta, diciamo, di inversione del processo, invece certo, che invece aspettarlo, esatto, andare a prendervi i clienti, come diceva prima, esatto, Oscar Giannino, esatto, invece che aspettare, esatto, lì in bottega, diciamo così, in bottega. E invece, esatto, e invece chi vi ha bloccato? E invece siamo state bloccate appunto da questa legge che noi non avevamo idea, sinceramente, che esistesse una cosa del genere. Quindi noi abbiamo partecipato a questo concorso che abbiamo vinto, quindi ci siamo fiondate ovviamente a far partire questa attività, solo che poi giustamente abbiamo, insomma, questo fermo, quindi il progetto è bloccato, perché effettivamente... Ma da chi? Dalla Camera di Commercio? La Camera di Commercio non ci registra, non c'è una forma, diciamo, di inquadramento, mettiamola così, perché noi siamo degli artigiani e gli artigiani comunque, diciamo, sotto il punto di vista dell'acconciatura ha un vero e proprio blocco, perché non può lavorare in modo itinerante. Perché lei stessa ambulante. Ci ha detto, esatto, che è un nuovo stile di vita, no? Però per diciamo gli artigiani l'acconciatura leggi, no. Le nostre leggi evidentemente non sono abbastanza al passo, diciamo così. Diciamo, lega, io apprezzo molto la diplomaticità dell'espressione della nostra, si dice non sono abbastanza al passo, cioè, bisognerebbe dire che sono medievali, inconcepibili al servizio di lobby che impediscono qualunque sviluppo, no? Oggi pensare che sei lì ad aspettare il cliente, ma questo vale non solo per le attività di cura della persona, vale per qualunque attività, vale per le banche con le vecchie filiali e così via. Credere che funzioni ancora così significa assistere a braccia conserte alla morte. Di che cosa l'offerta del servizio. Un ascoltatore dice, ma vivete in questa galassia, ci sono già i parrucchieri che vanno a casa e in nero fanno, oh furbino, in nero, l'hai detto te, e quindi non è che possiamo prendere a paragone un'attività considerata illegale, voglio dire, qua era fatto tutto con la legalità. Ma poi soprattutto negli altri stati è già esistente questo tipo di mestiere, quindi in realtà non ho inventato nulla di impossibile, cioè, semplicemente prendo un negozio e lo metto su ruote, esatto, cioè, così come i pub, così come i ristoranti, così come i food in generale, insomma. Però, cara Francesca, le presentiamo un professore, Alfonso Celotto, che insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3. Ha scritto un libro dal titolo Non è vero ma ci credo, storie di ordinaria burocrazia. No, non ci credo ma è vero. Non ci credo ma è vero. Non ci credo, purtroppo è vero. Non ci credo, non ci credo ma è vero. Non ci credo ma è vero. Sì, ho invertito. Professor Celotto, buongiorno. No, ma mi avete confuso con Peppino De Filippo. Ma Ma è il professor Celotto o è Ciro Amendola quello che abbiamo come ospite? Ah, esatto, tu sai che c'è uno sdoppiamento, sì, certo, pericoloso, certo, della personalità. Perché lui firma come Ciro Amendola. Ciro, ma io temo che sia Ciro Amendola. Io sono il legale rappresentante pro tempore, direbbe la burocrazia. Ciro Amendola. Esatto. No, lei avendo la libertà di parola a cui ci abito questo libro, è l'illegale rappresentato dal punto di vista del rispetto delle norme e del silenzio dei suoi colleghi. Quindi Ciro Amendola che direbbe di questa storia, che è tutto a norma di legge e quindi questa signora Francesca Lattante ha sbagliato. Purtroppo questa è la grande verità del nostro sistema giuridico, che noi abbiamo un principio secondo cui tutto è vietato salvo ciò che è permesso. E quindi se la legge non lo prevede, se non c'è il comma 12 aggiunta 25 bis di cui all'articolo 6, non è possibile. Questa è la follia del nostro sistema giuridico, che è un sistema stracolmo di leggi, no? Noi abbiamo qualcosa come 190.000 leggi che prevedono tutto, vorrebbero prevedere tutto, non riescono a prevedere tutto e badano solo alla forma. Questo è il vero problema. Quindi formalmente il parrucchiere ambulante non è scritto nella tabella delle possibili lavori ambulanti, per cui è vietato. Questo è la follia. Straordinario. Però professor Celotto, lei nel decalogo che ha regalato anche all'opinione pubblica, un giorno l'ha letto in rassegna stampa quando è uscito sulla stampa, perché era davvero più da mettersi le mani nei capelli. Sì, però descriveva abbastanza bene, no? Descriveva abbastanza bene. Nell'incertezza fai una riunione. Esatto, e così cos'è? Ci dica i due o tre punti che il perfetto burocrate deve mettere in pratica ogni dì. Tieni le carte a posto è il primo principio, cioè tu devi sempre cercare soltanto di badare alla forma. Quindi la forma vuole che tutto arrivi in tempo, tutto rispetti i termini, ma non si guarda alla vera essenza del risultato. Se noi prendiamo uno dei temi di queste settimane, no? Il codice degli appalti, tanto aspettato, tanto modificato, tanto auspicato, sono 300 articoli che non vanno mai a guardare se veramente l'appalto, la gara della pubblica amministrazione faccia qualcosa che serva per i cittadini. Ma è importante che le carte siano a posto. Le carte in regola. Quindi tu per esempio potresti costruire in un paesino di soli vecchi un asilo nido. Rispetti tutte le regole, è rispettato la legge, no? Certo, certo. Poi a cosa serve? Beh, vabbè, però... Ma questo è un altro discorso, la legge non si pone il problema, questo è il punto, la legge non si pone il problema di cosa serve, la legge si pone il problema che tutto sia ai sensi, esatto, ai sensi della legislazione vigente, no? Questo le carte è posto. Però, Celotto, diciamoci la verità, nel soppiantare politici sempre più incapaci di governare la moltiplicazione delle fonti normative, siete voi. Sono quelli come lei, sì, i vertici della piazza, cioè quelli che scrivono le teste di legge. Voi scrivete i testi di legge e voi avete costruito questa cosa al vostro riparo, che è solo formalista, che vi consente i mandarini, sì, è vero. Noi siamo i mandarini, però no, c'è un'altra questione che è molto interessante. Lo dice così, noi siamo i mandarini. Sì, noi siamo i mandarini, noi siamo i mandarini, e quindi dovremmo essere venduti a cassette, no, di mandarini, piuttosto che essere conservati. Lei vuole dire il potere politico passa, voi restate. Ma infatti io sono fuori da ogni carica di governo in questo momento, non a caso, perché sono a riposo. Sono a riposo e scrivo libri, però la cosa interessante è che, per esempio, c'è questa tendenza di scrivere le leggi troppo dettagliate, no? Proprio per la paura di sbagliare. Questa è un'altra questione che poi anche il dottor Amendola ne parla. Chi copia non sbaglia, no? Cerchi sempre l'appiglio formale, e quindi se devi fare una legge sul commercio ambulante, sì, non scrivi è consentito ogni commercio ambulante compatibile con le esigenze di decoro e ordine pubblico, no? Come dovrebbe essere la norma generale. Ma tu oggi preferisci scrivere sono consentiti commerci ambulanti di bibite, caffè, ristorazione. Entri nel merito più possibile. Esatto, fai l'elenco più dettagliato, così quando qualcuno ti viene a chiamare dice, ma come fate a autorizzare questi qui che facciano il parrucchiere? È scritto. Però quindi Francesca Lattante che deve fare? Francesca, cara Francesca, ma voi, perché molti dicono ma esistono, non so, la toilettatura per cani ambulante, l'arrotino, cioè tutta una serie, ma non la vostra professione, questo è ambulante. È questa la questione, no? è proprio l'acconciatore che non ha la possibilità di farlo, sì. Non è in quell'elenco, non è in quell'elenco, e quindi... Però, no, ha bisogno, secondo me può fare una cosa, perché poi in tutto questo formalismo giuridico... c'è la scappatoia. È la fantasia dei giudici che interviene, no? Oh, bravo. Apriamo un varco a Francesca Lattanto per consentire loro di farlo, perché io sono dell'idea che quando è così noi non possiamo solo sorridere e rassegnarci. No. Bisogna sfidare la norma per avere da parte di un giudice, un giudice che capisca, se ce ne trova uno ogni tanto, e dica no, effettivamente. Ma scusa, tac. Oscar, non l'abbiamo inventata noi, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Ma quindi, non è l'inganno. L'inganno è l'evasore. Questa deve essere una cosa pubblica, cioè noi dobbiamo intorno a Francesca e alla sua, che hanno avuto questa idea, costruire una cornice per la quale gli diamo sostegno per esporsi a eventuali azioni di contestazione. Sì. Che arriveranno da parte dei parrucchieri a quel punto fissi, ma per consentire a un giudice di dire no, questa norma così com'è, una terza via, Celotto. Bisogna avere il coraggio di sfidare Celotto, no? È così. Sì, sì, sì. Io mi candido volontario gratuitamente per aiutarla. Bravo Celotto, è fantastica, vi metteremo in contatto, giuro, lo facciamo per guardi che Alfonso Celotto, che ha scritto appunto questo libro, oltre a insegnare diritto costituzionale, lo ricito questa volta corretto, non ci credo, ma è stato dirigente generale in 6 diversi ministeri, ma appunto, stiamo parlando di uno che Può aiutarla, guardi Francesca, nessuno meglio di lui. Meglio di lui. Noi siamo fiduciose, noi ci teniamo, noi sorridiamo perché il Salentino è questo, perché insomma il Sud porta sorrisi, però in realtà ci teniamo molto. Noi ci impegniamo molto a dargli una mano per riuscire a farlo, appunto, non per arrenderci ridendo, certo, per farlo. Principio. Però Oscar, nel salutare i nostri ospiti, devi ancora una risposta sulla questione Calenda. Il nostro ascoltatore ce lo chiede. Allora, Calenda, cosa ne pensa, Oscar? Io penso 3 cose. Ottimo, perché si è già visto cosa sa fare. Ottimissimo, perché non è degiglio magico. Terzo, Renzi ha finito gli amici da nominare, perché come si vede nomina quelli che hanno già prodotto buoni risultati. Sapete che in cauda veneno c'è sempre, il veleno nella coda. Ha fatto però il lavoro più corto del mondo, 40 giorni esatto, a Bruxelles. E però si era già vista la differenza. Il punto vero è che per arrivare a lui avevano dei dubbi perché volevano nominare gli amici, ma gli amici sono finiti. è così, è lunedì nonostante il Torino abbia perso, però si sente dall'amarezza. Va bene, dai, a domani. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi